È all'ascolto della Nottedo su Rock FM, la voce è quella di Edo Rossi, un po' di amici insieme a me qua mi circondano. Allora un saluto e un ringraziamento naturalmente al grandissimo Peter in the Shadow che si sta prestando a dare un supporto tecnico, un saluto anche a tutti voi che state scrivendo, tra poco verrò a rispondere anche ai vostri messaggi che sono bellissimi, quindi 335-100-7777 il numero SMS. Allora, in studio adesso abbiamo Aldo degli Acamporas, Crazy Cooter, non si sa come, abbiamo ancora il buon Borchia, abbiamo Tongio che automaticamente si trasforma in bassista dei Rockpit, perché come sapete, insomma, con Tongio e Borchia dividiamo anche questa esperienza nella quale ci divertiamo a fare del buon rock and roll anni 90, eccetera, quindi abbiamo il Tongio trasformato in bassista, infatti è diventato una persona seria e composta, al contrario di prima, abbiamo il buon Numa da Ligi alla chitarra e a questo punto ce la accamporiamo, ci proviamo un paio di pezzi degli Acamporas che vi facciamo ascoltare in relativa anteprima con il supporto di Tongio e Borchia, che ovviamente conoscono a malapena il pezzo. Vediamo cosa viene. Questa è The Monster, questa è The Monster, e insomma ovviamente lascio il microfono principale al singer, lead singer. Ah, grazie. Grazie. All right. Questa era The Monster, bella una canzone che abbiamo scritto noi, bellissima, e adesso va bene. Senti, ora ne facciamo ancora un'altra Acamporas, poi cambiamo di nuovo la formazione. Anzi no, potremmo farne una un po' più, quella Acamporas la facciamo dopo. Va bene, d'accordo. Allora, facciamo dopo. Dai, allora. Ora presentare, perché oggi il pubblico deve essere in suspense. Sì, questa canzone la presentiamo così. Era uno scherzo. Now you're just losing your mind. Scusa, adoro. Ok, vai, vai, vai, facciamo questa. Ragazzi, squarto a Borchia. Freezing, resisting on a bed made of concrete again. Maybe you'll see that better Saturdays. Ah, yeah. Oh, oh, now. Face you never seen, come again and back familiar. Ah, yeah. Oh, girlfriend. You can't hear what is up here. Looks insane. nostro nonché Acamporas, nonché Rockfit, nonché tutto quello che vi pare. Questa è la Nottedo. Outer Devil, questi erano i Motley Crue, questa è la Nottedo. Allora, dunque, sto cercando di capirci qualcosa, non è facile però. Allora, dunque, ci stiamo veramente impazzendo. Allora, dunque, vi chiedo gli sms al 335-100-77-77. Allora, tra poco li verrò a leggere, insomma, è un po' un attimo un casino perché tra jam session, tra insomma, canzoni e cose di questo tipo, ovviamente è un po' difficile da gestire la Nottedo, però è così che la volevamo, no? Insomma, volevamo mica una Nottedo così mezza molla nella quale così intristirci, tutt'altro, insomma, si è qui per fare del rock and roll, o no? Allora, siete all'ascolto di Rock FM, Edo Rossi nella Nottedo. Dunque, allora, come vi ho detto, avevo promesso che avrei trasmesso almeno tutti i dischi che avrei trasmesso questa sera provenivano dalla mia collezione privata, e così continua ad essere, ed è arrivato il momento di parlare di una band della quale non parlo mai, nomata Guns N' Roses. Perché? Perché in realtà, tra tutte le varie cose, b-side, cose di questo tipo che sono uscite a cavallo, durante o nella pubblicazione di Appetite for Destruction, piuttosto che negli anni dei Guns N' Roses, c'è questa b-side che non mi è capitato più di ritrovare molto in giro, perché rimane forse una canzone un po' particolare. Perché particolare? Perché trattasi di una canzone ovviamente conosciuta, che si chiama You Are Crazy, che è quella canzone famosa che su Appetite for Destruction c'era in versione elettrica, che poi è stata ripresa in versione acustica su Guns N' Roses Live, per intenderci quel EP dove per metà c'era l'Epilive Like a Suicide e per metà appunto queste canzoni acustiche. Ne esiste una terza versione registrata che vi faccio ascoltare perché è molto particolare e in realtà credo che sia rimasta una versione inedita. Appunto questa è You Are Crazy in una versione che in realtà è molto in linea con quello che sta succedendo qua alla Notedo, visto che trattasi di strumenti acustici e insomma è festa danzante. You Are Crazy, questi sono i Guns N' Roses. 1, 2. You don't want my love, you want satisfaction. Oh, yeah, yeah. You don't need my love, you gotta find yourself another piece of the action. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. What you gonna do? I've been looking everywhere tonight. I've been looking for you because you don't want my love. You want satisfaction. I got your satisfaction. You don't need my love. You gotta find yourself another. You stole the action cause you're crazy. Hey, hey, you know you're crazy. Oh my, I said you're crazy. Oh child, you know you're crazy. Oh yeah. Down, you're crazy. right. Allora, questi erano i Guns N' Roses di You Are Crazy in questa versione molto particolare. Infatti c'è Manuel che dice: cavolo Edo, questa non ce l'ho nemmeno io. Medaglie. Da dove sbuca fuori? Allora, trattasi di una B-side del singolo, di una delle versioni dei singoli di Welcome to the Jungle. Nella B-side c'era anche Night Train e questa versione di You Are Crazy, che in realtà insomma gli abbiamo, è come se avessero suonato qui all'interno degli studi. Diciamo che è come se Rock FM vi avesse fatto fare un salto temporale nel 1987, quando i Guns N' Roses erano all'inizio della loro carriera. E voglio dire, se avessi fatto una nottedo negli Stati Uniti, avrei invitato anche i Guns N' Roses e sarebbero venuti a suonarla così. Allora, volevo rispondere un po' di sms per quanto mi è possibile, perché per fortuna, ragazzi, ne state mandando tantissimi. Vi prego, me ne mandate almeno uno in più adesso, perché me ne sono arrivati 101. A me quel numero non so perché, ma non mi... allora, dunque, 335-100-7777, questo è il numero di sms al quale mandare i vostri messaggi durante la nottedo qua a Rock FM. Sono le 2:10, siamo in diretta, tra poco partirà un'altra jam session. Allora, un saluto va a Ivan, che dice: ora sì che non dormo più, che spettacolo Victim of Fate. Questa veramente è una canzone di qualche ora fa. Comunque, devi fare l'anno Edo, non la notte. Ivan, sempre con voi, ci si vede, spero ci si conosca alla Flog di Firenze. Naturalmente saremo non vediamo l'ora di incontrarvi al primo Rock Family Party. Poi, ragazzi, la radio sarà stata chiusa il giorno prima, quindi avremo assolutamente bisogno del vostro supporto. Poi dunque, un saluto anche a Tex, che dice: con Victim of Fate degli Halloween ho avuto incontri ravvicinati del terzo tipo. Va bene, grazie. Poi che dire, dunque, ma ci tenete proprio a tenermi sveglio la notte? Prima con la nottata di Hard and Heavy, adesso con questo, tanto meglio. Tra meno di una settimana mi mancherà troppo Rock FM, ma la mia radio resterà sempre sintonizzata su 101.4. 101.4, e che frequenza è? Dove ci stai ascoltando, caro? Ah, da Carpi, è vero, la mitica frequenza di Carpi, grande Albi. Poi un saluto a chi scrive: senta signor Rossi, mi sento una pensionata, ma domani la mia sveglia suonerà presto, però lascio lo stereo acceso, vedi di mettere One in a Million e cose di questo tipo. In alto i calici al dio del rock. Sicuramente io non ho messo One in a Million, però ti ho messo questa versione di You Are Crazy, che sicuramente avrà incontrato le tue i tuoi piaceri e le tue, come si dice in questo caso, non importa. Allora, un saluto anche ad altri, ad Ale da Bologna. Mi piacerebbe poterli leggere tutti con calma, anche perché mi si stanno un po' confondendo. Ancora un saluto a Mick, un saluto a Jospli, un saluto, mamma mia, veramente ce ne sono tantissimi, sono difficili anche da tenere insieme. Un saluto a San Six, San Sesto? No, porca miseria, sto facendo una figuraccia. Poi, dunque, un saluto a Dice, che ci scrive da Londra. Tra l'altro avevo visto prima addirittura un saluto da Avellino, oltre che a Milena da Ravenna, oltre che a un sacco d'altri, insomma ci sono un sacco di nomi, veramente. Sì, hai ragione Borchia, abbi pazienza. Un saluto ad Andre, a Carolina da Genova, un saluto a, porca miseria, veramente tanti, un abbraccio circolare, un saluto a Buddha Panzer, un saluto a Geco, un saluto a Patrizia, mamma mia, quanta bella gente che scrive. Noi siamo qua, sentiamo ancora un disco e poi ripartono le jam session della Nottedo qui da Rock FM. Tra poco ancora a Maniscalco Maldestro, a Camporas, chi più ne ha più ne metta. Esatto, esatto, che verrà a trovarci. Intanto il disco di apertura del disco, la canzone di apertura del disco Lean Into It, i grandi Mr. Big. Tra l'altro il buon Paul Gilbert ci verrà a trovare prossimamente, almeno avremo un contatto in questa settimana, staremo a vedere. Comunque, dicevo, Lean Into It, disco dei Mr. Big del 1991, questa è Daddy, Brother, Lover and Little Boy su Rock FM alla Nottedo. Come on!